8. Ascolta e controlla. 1. Mi dica. 2. Accomodatevi pure. Ecco la carta dei vini. 3. Certo, questo maglione è un po' caro. Mi faccia un po' di sconto. 4. Insomma, sbrigati. 5. Signora, prenda queste medicine. Starà subito meglio, si fidi di me.